che voce cavase non se vanno, non sostivo caine, pure te chiamma non risponde, beffa dispietto a me. Tenimmo già così anima e cuore, non ce lasciammo ch'io manco un'ora. Sto desiderio e te me fa paura. Sempre con te per non morire, che c'è in cima fa parole amare, sia bene poca amba con respiro. Tenimmo già così anima e cuore. Parole amare, sia bene poca amba con un respiro, si smania porato per chi sta a cuore. Tenimmo già così anima e cuore.